La nascita del Signore dà origine al popolo cristiano nella pace. Da un'omelia di San Leone Magno. Ogni giorno, in ogni tempo, alla mente dei fedeli che meditano le realtà divine, si presenta la nascita del nostro Signore e Salvatore dal seno della Vergine Madre, perché l'intelligenza si elevi a glorificare il suo Creatore, o nella compunzione del pianto, o nel giubilo della lode, o nell'offerta del sacrificio. Lo sguardo dello Spirito nulla deve contemplare con più frequenza e fiducia del mistero per cui Dio, Figlio di Dio, eternamente generato dal Padre, è nato anche da un parto umano. Ma nessun giorno più di questo ci invita a contemplare questa natività, degna di essere adorata in cielo e sulla terra. Naturalmente quell'infanzia che la maestà del Figlio di Dio non ha ritenuto indegna di sé, con lo scorrere degli anni ha ceduto il posto alla piena virilità e una volta compiutisi il trionfo della passione e della risurrezione, tutti gli atti di annientamento abbracciati per noi hanno avuto fine. La festa di oggi, tuttavia, rinnova per noi il sacro Natale di Gesù, generato dalla Vergine Maria. E mentre adoriamo la nascita del nostro Salvatore, ci ritroviamo a celebrare la nostra stessa nascita. Infatti la generazione di Cristo è l'origine del popolo cristiano, e il Natale del capo è anche il Natale dell'intero corpo. Benché ciascuno dei chiamati abbia un suo particolare posto e tutti i figli della Chiesa si succedano in tempi diversi, tuttavia l'intera moltitudine dei fedeli uscita dal fonte battesimale è stata generata con Cristo in questa nascita, come con Lui è stata crocifissa nella passione e risorta nella risurrezione e collocata alla destra del Padre nell'ascensione. Ogni credente, di qualsiasi parte del mondo, che venga rigenerato in Cristo, con la rigenerazione passa dall'antico stato di colpa alla condizione di uomo nuovo. Da questo momento non discende più dal Padre secondo la carne, ma dal Salvatore, che si è fatto figlio dell'uomo perché noi potessimo essere figli di Dio. Se egli infatti non fosse disceso fino a noi mediante il suo abbassamento, nessuno coi propri meriti sarebbe potuto salire fino a lui. Coloro dunque che non da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma da Dio sono nati, si offrano al Padre come figli uniti nella pace, e tutte le membra che Cristo ha adottato si ricongiungano in colui che è il primogenito della nuova creazione, venuto a fare non la propria volontà, ma quella di chi lo ha mandato. La grazia del Padre non adottò eredi discordi o dissimili, ma unanimi nei sentimenti e nella carità. Rigenerati secondo un'unica immagine, conviene abbiano un'anima ad essa conforme. Il Natale del Signore è il Natale della pace. Così infatti dice l'Apostolo, egli è la nostra pace, è colui che di due popoli ne ha fatto uno solo, poiché giudeo gentile, è merito suo se gli uni e gli altri in un solo spirito abbiano accesso al Padre.